padre non vuole che tu resti con me. Avrà letto i messaggi, o sarà forse per i tatuaggi, o i miei disagi che tu mi fai. E a casa non sono visto bene perché non credo in Dio, credo solo in me. Vagli a spiegare che siamo ragazzi e che ti piace farti limonare in taxi. Ma tu mi fai come drink al toy, sai quando passano i Beastie Boys, come buffet nelle feste di gala dove si fiondano gli avvoltoi. E non lo dire ai tuoi che stasera non torni a casa ma stai con noi, e prendere un enjoy dall'università. È un giro che suona come una novità. Che cosa vuoi che ti do? Ti darò questo cuore per mezza stagione. Che hai, non perderò l'occasione per andare più oltre che mai. Segno un'intersezione tra le tue labbra, sana il veleno che morto di più se mi tocchi, tu che mi blocchi, gli occhi sul reggiseno. Sei il mio angelo Victoria's Secret, con il septum e le ciglia glitter, i tuoi occhi legali in 50 paesi e le Nazioni Unite. Ci facciamo un giro che ne dite, puoi portare pure le tue amiche. Ho bisogno di zone lontane così da ingannare la psiche. Che cosa vuoi che ti do? Ti darò questo cuore per mezza stagione. Vale la pena? Forse no, ma una cosa la so già da come muovi la schiena. Tutta la festa sembra una favela. Fermarmi un secondo, volevo andare più a fondo. E dimmi, dimmelo. E ora che siamo io e te, nana, non mi nascondo. Sei la più bella del mondo, sei la più bella del mondo. Ma questa sera